Avvocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. 800240024, Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Valeria Bernardi in regia, qui Carlo Genta con me. È successo tutto nell'ultima mezz'ora, sì, quando si è svegliata la Juventus, che ha battuto il Chievo 2-0 più 8 virtuale sulla Roma. Poi vedremo questa sera se la Roma saprà scollinare quel Gran Premio della Montagna di seconda categoria o anche prima categoria, prima os categoria, forse, che è Firenze. Rischiamo di perdere il campionato questa sera. Sì, l'avevamo anche anticipato, cioè la Roma è in un momento così, la Juventus era solo questione di tempo. La sorpresa è stato sono stati quei primi 60 minuti senza gol, poi il lampo di un campione, il solito, cioè Pogba, il secondo lampo di un campione, cioè sempre il solito Pogba, con il tap-in di Rick Steiner, e la Juventus ha sbrigato la pratica a Chievo, e poi l'Inter. Sì, pratica liquidata, ci stavamo anche un po' annoiando questo pomeriggio, poi la Juve e poi 94esimo a San Siro. Piove il pallone, poi colpo di testa di gol di Moretti, il Torino passa in vantaggio a 10 secondi dalla fine e va ormai vicinissimo una clamorosa vittoria, tutti ad abbracciare Moretti all'ultimo calcio d'angolo, passa il Torino. 800240024, siamo qui fino alle 19, tifosi dell'Inter, tifosi del Milan, perché c'è anche la grande crisi del Milan. 800240024, poi vediamo anche le ultime da Milanello sulla situazione di Pippo Inzaghi. Va via? Resta fino a martedì. Il bollino della scadenza appiccicato in fronte. Andiamo subito a San Siro, Dario Ricci. Ciao Dario. Eccoci Giovanni, intanto col il mio ospite Andrea Sorrentino, l'inviato di Repubblica, ci stavamo godendo anche noi il gol e mezzo di Pogba. Tutt'altro clima qui a San Siro. Sì, c'è stato tempo solo per i fischi dopo quello che abbiamo sentito. Infatti sono sentiti i fischi e quella di Moretti è stato un epilogo inatteso di una partita comunque molto deludente da parte dell'Inter. È arrivato il gol al 94esimo, l'angolo di El Tadduri, la spicciata di Maxi Lopez e Moretti che è stato bravo a incunearsi tra Vidic e Obi sul secondo palo e a battere Handanovic. Vittoria per il Torino, forse un premio eccessivo, ma Andrea Sorrentino, non tanto un Inter troppo brutta per essere vera, ma troppo lenta per essere vera, ritmi quasi sudamericani per una prestazione da 4 in pagella, direi. Sì, attenzione che i sudamericani potrebbero seccarsi. Sì, potrebbero querelare. Sì, visto che le partite del calcio sudamericano spesso sono molto combattute, vibranti e vivaci. Invece l'Inter non è stata né vibrante né vivace, oltre che lenta, ed è stata un po' la solita Inter di cui io vado dicendo da mesi. Secondo me neanche con l'arrivo di Mancini è cambiato granché, e infatti la partita di oggi lo testimonia. Quindi tutto previsto, purtroppo, almeno da me, è un Inter che ha dei grossi problemi di personalità e di velocità di esecuzione, come si era visto ad Empoli anche. Sì, Dario, ci raccontate un po' il clima di San Siro. Io intanto do un dato, Carlo: 34.209 spettatori. Anche questo effetto, l'entusiasmo, gli acquisti, in realtà continua a non vedersi nulla, non è solo una questione di campo. Poi ci sono stati i fischi alla fine che credo segnino il termine della luna di miele di Mancini, e questa è un po' la sensazione. Perdi in casa con il Torino, cosa vuoi fare? Cioè, sono fischi matematici, cioè non vedo altre alternative, ma soprattutto perdi in casa col Torino dopo una partita che non puoi definire sfigata, perché non hai preso pali traverse, attaccato a testa bassa, creato mille occasioni. L'Inter, ti è scivolata via. L'Inter, potranno confermare Dario Ricci e Andrea Sorrentino, non ha creato nulla, no? Dario, fine dell'illusione. Inter che di fatto non ha creato nulla, un paio di conclusioni di Podolski, ma devo dire che San Siro è fin troppo generosa con quest'Inter, perché comunque la Curva Nord ha continuato a incitare la squadra. I fischi sono arrivati proprio per la sconfitta finale, ma devo dire che la campagna acquisti finora fatta da Mancini ampio credito, e anche la curva e le tribune sembrano dargliene, no Andrea? Di fatto però quello che si è visto oggi è un passo indietro considerevole. Ragazzi, qui dobbiamo capirci, l'Inter è rimasta uguale a se stessa. I nuovi acquisti, cioè Podolski e Shaqiri, finora non hanno aggiunto molto, perché si tratta di due giocatori ancora indietro di condizione, ci vorrà tempo per vederli in forma. Soprattutto Podolski, non è un caso che stesse fuori nell'Arsenal, evidentemente se poi è arrivato qui in queste condizioni. Shaqiri veniva da un mese di inattività, anche oggi è entrato nel secondo tempo, ma era letteralmente piantato in campo. Per capirci, sembrava Cerci. Sì, esatto, è come se le fatiche del mercoledì di Coppa gli pesassero in un modo invisibile, quindi è un Inter insomma che deve guardare al futuro, ma per quest'anno non c'è verso, non c'è verso. Però scusa Andrea, sì, con tutto quello che significa Dario, oggi c'era Toier in tribuna, c'era Toier e Moratti in tribuna, e soprattutto qua si fanno investimenti, anche se poi mettendoli a bilancio nei mesi prossimi, che se non entrano col terzo posto creano uno scenario anche preoccupante per il club. Di preoccupante c'è poco, ci sarà da vendere dei pezzi importanti nel mercato estivo, cioè i Kovacic, gli Icardi, gli Handanovic, quelli che hanno mercato, l'Hernanes della situazione che ormai con Mancini si è capito non ha spazio, quindi l'Inter è già pronta a fare delle cessioni importanti a giugno se non arriverà in Champions, come è probabile che non arrivi. Sì, Dario, ringrazio Andrea Sorrentino, ti chiedo se riesci ad avvicinare qualche altro collega, sta iniziando a parlare Mancini, così prendiamo subito le riflessioni del tecnico dell'Inter, 800 24 00 24, ci sono anche tifosi del Milan che stanno scrivendo al 349 238 6666, chiedendo a Berlusconi di vendere e subito il club, ammesso che ci sia qualcuno che vuole prenderlo. Sentiamo Mancini, Sky Sport. La prestazione, sono contento, la squadra ha giocato, doveva fare quello che ha fatto, quello che doveva fare, ha avuto il possesso palla benissimo fino al limite dell'area. Al limite dell'area ci siamo un po' persi perché ci siamo mossi poco e anziché attaccare la profondità venivamo sempre incontro, però la squadra deve fare questo, poi il calcio è talmente crudele che all'ultimo secondo subisce un gol così, quindi ma questo è il calcio, purtroppo non possiamo fare niente, ma la strada è quella, non deve cambiare. Dice che è crudeltà il gol, noi lo commentavamo insieme molto con Luca Marchegiani, sarà qualche errore forse? No, crudeltà è sicuramente abbiamo dormito, questo è certo. Primo perché non si offre la possibilità, visto che era una zona del campo dove eravamo due contro uno vicino alla bandierina e si fa in modo di non dare un calcio d'angolo, invece noi anziché essere molto più aggressivi abbiamo concesso un calcio d'angolo e poi abbiamo marcato proprio male. Quindi Moretti è libero, non lo prende nessuno. Sì, però per questa partita è crudeltà, perché assolutamente l'Inter non meritava assolutamente né di perdere né di pareggiare, quindi perché insomma abbiamo giocato sempre nella metà campo, loro si sono difesi benissimo perché sono difesi con tutti gli uomini, noi abbiamo trovato pochi spazi, però è quello che dobbiamo fare. Andrea, questa è la lettura di Mancini ai microfoni di Sky. Io non so, Carlo, questa Inter che meritava di vincere, io meritava di vincere, non l'ho dove? Vista, devo essere sincero. Giovanni, l'abbiamo, onestamente su Sky le abbiamo viste un po' tutte. L'Inter è stata una delle meno inquadrate, ma anche perché non ha creato niente nel corso di questa partita. Ora, posso capire che Shaqiri era reduce dall'inattività, dalla pausa invernale col Bayern Monaco, però imballato di fatica. Ma va bene, ma imballato di fatica, però voglio dire, ha giocato, è un ragazzotto, ha giocato con la Sampdoria, è stato importante con la Sampdoria, sfrutti l'adrenalina, lo butti in campo, non capisco perché, Palacio arriva, sembra un giocatore invecchiato di 100 anni improvvisamente. E allora provi ad inventarti qualche cosa di nuovo. È un Inter che non è riuscito a creare niente, quindi Mancini parla di crudeltà. Io non parlerei di crudeltà, parlerei del normale esito di una partita di pallone di questo tipo. Sì, su quel traversone anche Handanovic fa completamente il suo, resta inchiodato. Magari riusciamo a sentire prima del traffico ancora Mancini? Un po' più avanti, però poi è chiaro che uno la classifica la guarda anche adesso. Terzo posto è un obiettivo realmente raggiungibile o l'Europa League, che tornerà tra un po', potrebbe diventare l'obiettivo principale? Una partita è chiaro che era la prima, quindi iniziare bene sarebbe stato importante, però ora non possiamo fare niente, solo imboccarci le maniche e cercare di raggiungerlo. Ilaria, c'è il traffico, 800 24 00 24. Buonasera, sono poco coeso, poco positivo e fiducioso, e non cambierei la nostra rosa con il cactus di nessun'altra squadra. Tutti convocati. 3899-800-24-0024. Ho la fotografia del calcio, del calcio milanese in questo momento, Carlo. Dice Inter e Milan insieme 52 punti, Juventus da sola 49. C'è ancora Costa. Mancini che parla? Questa è la fotografia del calcio milanese. Sentiamo Mancini. Fantastico. Sta giocando, le ultime due partite sono state le migliori, secondo me. Le ultime due partite sono quelle con l'Empoli di sabato scorso, 0-0, praticamente senza tirare in porta. Le ultime due partite sono quelle con Torino. Non lo so. Emanuele da Vicenza. Emanuele. Sì, buonasera. Grazie, eccoci. Grazie per... Prego. Scusate il mio intervento e grazie per darmi sfogo. Io parlo da Milan, parlo di Milan, sono un tifoso del Milan. Per la mia età over 40 ho vissuto il dramma sportivo della Serie B, ma anche l'apoteosi degli anni successivi. Sì. Io però una situazione così, di totale incertezza come questa, io non l'ho mai vista e mai sentita, neanche quando siamo andati in Serie B. Qualsiasi azienda, se manca di un piano industriale, di un progetto, non va a nessuna parte. Beh, c'era già l'anno scorso, no? L'anno scorso. Prego? L'anno scorso. E quest'anno... Sì, è un po' la fotocopia della situazione dell'anno scorso, il Milan. Continuiamo, esatto, continuiamo a bruciare energie e talenti. Vedi De Sciglio e Sharawi, irriconoscibili. Allora io vi dico, da tifoso, parto anche dalla Serie B, partiamo dalla primavera, ma partiamo con un progetto. La proprietà deve fare delle scelte, purtroppo anche radicali. Sì, tutto sempre qua. Che ci sia la possibilità di fare quelle scelte radicali, Giovanni, cosa che io ritengo in questo momento difficile per il Milan. Conviene chiarirsi, facciamolo io e te. Cioè, secondo te Berlusconi ha la possibilità di presentare, per com'è, per quella che è la sua storia, eccetera, ha la possibilità di presentare la squadra primavera a giocare con la maglia rossonera? Secondo me no. No, ma sono dei paradossi, evidentemente. Quello che lega come un filo Inter e Milan in questo momento è l'assoluta difficoltà a mantenersi competitivi. Poi l'Inter aveva lasciato intendere in queste settimane di avere un progetto, forse c'è ancora in questo momento nel Milan questo progetto, non si vede, però i risultati poi sono sotto gli occhi di tutti. La partita del Milan l'abbiamo vista ieri sera, poi ne parliamo ampiamente, vi daremo anche le ultime sulla situazione di Pippo Inzaghi. Quella dell'Inter di oggi, dice Mancini, perdere così è crudele, le ultime due sono state le migliori partite dell'Inter. Io vi leggo la media punti di Mancini, 10 punti in 9 gare, media 1,11. Torniamo da Dario Ricci a San Siro. Dario. Eccoci qui con un altro ospite, Riccardo Signori, inviato del giornale. Beh, Riccardo, abbiamo sentito la... Che cosa ne pensa? L'ufficio... Perché noi siamo un po' perplessi di questa lettura di Mancini. Difesa d'ufficio da parte di Mancini, un Inter che a suo dire avrebbe addirittura meritato i tre punti. Direi che dalla tribuna stampa, ma anche dal resto di San Siro, si è vista tutta un'altra storia. Perché secondo te Mancini sceglie subito questa linea? Sceglie questa linea perché è l'unica soluzione per non farmi a colpa mia colpa per errori suoi e errori della squadra. Errori suoi perché anche nella formazione, perché indubbiamente Shaqiri, se è un giocatore che può cambiare la faccia all'Inter, deve giocare subito. Certo. E vuol dire, visto nel secondo tempo, non mi sembra che abbia faccia all'Inter, anzi la peggiore. E errori della squadra perché con tutti i giocatori di piedi buoni che ha, questa squadra è riuscita a non infestire mai il Torino, a tiraccare malamente in porta e poi farsi fare questo gol da Polli finale, che poi comunque è il solito gol che prende l'Inter quando è nella situazione di difficoltà. Tra l'altro abbiamo visto un Podolski che, schierato sulla destra, cercava invece con maggiore frequenza l'altra faccia per ritrovare gli automatismi a cui è abituato. Stessa cosa ha cercato anche di fare Shaqiri, che invece in altre occasioni si è autorelegato sull'esterno destro dell'offensivo. Insomma, mi sembra che Mancini non abbia gestito bene anche questo traffico offensivo. Mi sembra che qui ci sia un po' di confusione un po' in tutti, perché Podolski appunto tendeva ad andare sempre a sinistra pur dovendo stare a destra. Tra l'altro devo dire che dopo l'iniziale illusione che aveva dato magari a Torino contro la Juve, adesso sta dando la conferma del perché all'Arsenal non giocava, perché se questo è Podolski effettivamente è ben poco, non è più quel giocatore devo dire bravo, intraprendente, anche goleador che giocava per esempio nella Germania. Sì, c'è stato presto evidentemente per dare dei giudizi definitivi su Podolski. Lewandowski, su Shaqiri, un po' su tutto. Ma allora, ma ti ricordi quando Sneijder è sbarcato dall'aereo, Mourinho l'ha preso all'aeroporto e l'ha messo in campo nel derby? Sì, però un conto è entrare in una squadra che funzionava. Ma non e vuol dire, era una squadra non che funzionava. Giochi anche sull'emotività in questo momento. Come può Podolski, come può Shaqiri stare fuori in questi Inter in difficoltà? Aspetta che vi faccio sentire un fenomeno vero. Pogba, Sky, ha deciso Juventus Chievo. Dario, torno subito da te poi. Anche le tue prestazioni, stai sempre migliorando. Il lavoro che devo fare per la squadra e per me personalmente, devo continuare così per tutto il club, per tutti i tifosi e andare davanti così. Spero che vado a continuare su questa strada. Non è stata una partita facile, perché Chievo ha giocato a viso aperto, con coraggio, ci è voluta una tua magia per sbloccarlo. No, è vero che loro hanno difenduto molto bene dopo il primo gol, è vero che loro hanno lasciato un po', hanno provato di fare un gol e abbiamo fatto il secondo, quindi non era facile, abbiamo fatto una grande partita contro una squadra molto, molto tosta. Questo Pogba, per tornare a chiudere da San Siro, Dario, a un certo punto abbiamo visto l'Inter con Kovacic e Guarin sulla mediana, con Icardi punta, con Shaqiri, Palacio e Podolski. A me ha ricordato un po' i tentativi di vecchia maniera di Mancini quando cercava di ribaltare con Recoba le partite. Dario. In effetti si sono visti tutti i piedi buoni, no? Diciamo, con Riccardo Gentile, ma anche tanta confusione. La battuta che ha fatto proprio istanti fa off record, a questo punto Brozovic non firma e se ne torna a Zagabria, visto il tanto lavoro che l'aspetta a centrocampo. Sì, penso che proprio si sia spaventato, perché centrocampo ti viene mal di testa solo a guardare. Devo dire che tra le tante cose negative c'è una positività, quella di Guarini nel primo tempo, che ha giocato da centrocampista con la testa e soprattutto è rimasto dove doveva stare. È un po' poco per questa Inter che in realtà non sta trovando la soluzione per prendere il volo. Io penso che ormai è un po' indietro e il tempo passa e deve guardarsi più indietro che avanti. Insomma, non mi sembra una bella situazione, soprattutto perché adesso quell'Inter comunque ha giocatori di qualità e non può permettersi di far partita come quella di oggi, dove lenta, incapace di sfondare il muro del Torino, alla fine ha preso un gol. Grazie Riccardo Signori, grazie Dario Ricci. Ciao Dario, ci vediamo in redazione. C'è Mancini, c'è Allegri, scusate, microfoni Sky Sport. Altrimenti non ci sarebbero giocatori che valgano 100 milioni, giocatori che valgano 5 milioni. È tutto lì, quindi credo che Paul, soprattutto oggi, dove il primo tempo la squadra ha fatto un primo tempo mediocre, soprattutto anche per merito del Chievo, abbiamo sbagliato molto tecnicamente, ci siamo mossi poco, però il Chievo ci dava grande pressione. Nonostante questo abbiamo avuto 3 o 4 situazioni per andare in vantaggio su calci piazzati o su azione. Secondo tempo la squadra è cresciuta sul piano fisico e dell'intensità, il Chievo è un pochino calato e grazie alla giocata di Pogba siamo andati in vantaggio e dopo è diventato tutto più facile. E credo che anche l'unica occasione che hanno avuto, quella delle scrotte per lo sorpalo, direi ci siamo un pochino addormentati noi, altrimenti avevamo concesso praticamente niente al Chievo. E nonostante questo il Chievo credo che sia stata una delle poche squadre che è venuta qui giocando in un certo modo e creandoci delle difficoltà. Sì, c'è stato un momento in cui la Juventus ha fatto fatica, ha ragione Allegri, poi sai Pogba te le puoi risolvere anche in questi pomeriggi un po' così. 800 24 00 24, Manuel da Milano. Manuel, sì, buongiorno. Prego. Sì, grazie di avermi chiamato. Ma io sono un tifoso del Toro e sono veramente contentissimo perché è una vittoria straordinaria. Cioè, vincere in casa dell'Inter dopo, penso che erano quasi 30 anni che non vincevamo, adesso l'anno esattamente non mi ricordo, perché mi ricordo una vittoria nell'85-86 con un gol di Cravero. Febbraio 1988. Ah, 88. Sì. Febbraio 1988, prego. Sì. Beh, eravamo bambini, per... No, sì. Bambini no, però voi ragazzi. Prego Manuel. Ma no, diciamo che secondo me, diciamo che prima della partita un pareggio sarebbe stato un buon risultato, perché l'Inter è comunque una squadra forte. Poi certo che ho visto alla fine comunque il Torino è riuscito a controllare molto bene la partita, l'Inter occasioni praticamente non gliele abbiamo fatte creare. O non le hanno create da soli perché non erano capaci? Beh, sai, tutto. Allora, onestamente credo che se l'Inter comunque ha dei giocatori di qualità non è riuscita a creare un'occasione nitida, credo che ci siano anche dei grossi meriti nostri, cioè attribuire tutto questo a demerito dell'Inter, sicuramente sono dei grossi meriti del Torino, perché l'Inter comunque è una squadra valida, che poi certo non è la Juventus, però sì, poi soprattutto in questo momento non ha nemmeno gli uomini in grado di risolverti una partita come questa, dove ci sono stati momenti in cui il Toro ha difeso in 10 dietro la linea della palla, pochi spazi. Però le grandi squadre in casa devono avere l'antifurto per riuscire a venire a capo di queste situazioni. Una squadra che non segna mai, cioè che ha enormi difficoltà a segnare. Segnano i difensori, Glick, capocannoniere, certo, Moretti, che ha segnato oggi a San Siro. Fino a quando poi non comprano un attaccante vero, cioè, con tutto rispetto per Quagliarella, sta facendo una buona stagione, ma non è quello che la sbatte dentro. A Mauri c'era una volta, e Maxi Lopez lo conosciamo. Il Toro ha un attaccante nel mirino. Avesse avuto un attaccante, probabilmente l'avrebbe chiusa prima questa partita. Chissà se i tifosi del Toro avranno fatto pace con Cairo. Jack da Bari, Jack. Buonasera. Eccoci. Mi senti? Sì, sì. Prego. Allora, volevo parlare un po' degli Inter. Io sono tifosi e devo dire che noi tifosi non ci dobbiamo illudere. Perché sì, va bene, l'Inter ha comprato due giocatori di altissimo livello, ma erano tanti da 10 anni quasi, uno come Podolski. Allora vuole dire che con noi tifosi non ci dobbiamo illudere, che ci vuole un po' di pazienza. Magari avevo bisogno un po' di parere di Beppe Bergomi, uno che ha giocato con grandissimo giocatore, uno come Matthäus e Jürgen Klinsmann. Quindi ci vuole un po' di lavoro e Mancini deve avere un po' di pazienza. Sì, purché siano chiare le prospettive, perché fino a oggi, ore 14:59, nell'ambiente Inter, a partire da Mancini, sentito ieri, si ragionava ancora di rincorsa al terzo posto. Mancini, che ieri, il tempo non ci sia. Conferenza stampa, adesso dobbiamo cambiare passo. Nell'ultima settimana contro Empoli e Torino, un punto in due partite. Se il momento di cambiare passo c'era, era questo, mi pare che il verdetto sia chiaro, lo dice la classifica. In questo momento Inter insieme al Milan a quota 26 punti, il terzo posto ci sono Lazio e Samp a quota 34, manca ancora il Napoli che potrebbe salire a 36. Assomiglia tanto a una sentenza definitiva. 800-24-00-24, torniamo subito. Ma no, insomma, a me queste settimane, devo dire, mi piacciono. Convocati. Sono arrabbiato perché per quello che abbiamo dimostrato il primo tempo e come dovevamo anche continuare a giocare non siamo riusciti e loro meritatamente hanno pareggiato e ci hanno messo in difficoltà, anche perché comunque sono ottima squadra, perché c'erano Dybala, Vasquez, lo stesso questo qua Barreto, come si chiama? Barreto, che sono dei ottimi giocatori, ecco. Le chiedo appunto il perché nel secondo tempo Mihajlović abbastanza deluso. A dire la verità, Palermo ha vinto, no? Palermo in realtà ha vinto, perché ha vinto 2-1. È finita 1-1, ma decimo minuto del secondo tempo c'è stato questo. Traversa clamorosa di Morganella con un tiro praticamente perfetto, palla che batte a terra, attenzione, vanno tutti a protestare quelli del Palermo. Avete visto Rigoni? Cerchiamo di capire. Grande aggancio, prende la mira, destro all'incrocio, traversa e poi gol, senza alcun dubbio. E poi era gol di tutta la vita. Se era la Roma o la Juventus, erano qua a strillare come le aquile. Molto più chiaro di quello di Udine, quello di Genova era gol. Sì, molto più gol di quello di Udine. Molto più gol. L'hai visto una volta, no. Vedi, l'anno prossimo sarà 2-1 per il Palermo, se Dio vuole. Arbitro Cervellera, addizionale di porta, sempre il difficile, Chiffi. No, sempre questo era facile. Tendo alla soluzione, però questo era chiaramente gol. C'era luce tra il pallone e il palo, questo era gol, il Palermo avrebbe vinto 2-1, peraltro meritandolo assolutamente, perché ha preso a schiaffoni, a sberle la Sampdoria soprattutto nel secondo tempo. Sì, tutto il secondo tempo. Palermo, che è una squadra assolutamente da prendere con le molle. Francesco da Roma, 800 24 00 24, e ripeto, se serviva un'ulteriore prova della necessità di mettere la tecnologia sui gol non gol, diciamo che questo 2015 ce l'ha consegnato. Francesco, eccoci. Sono da Torino, non da Roma. Sì, Francesco da Torino, prego. Ecco, io, a proposito del gol, non gol, cioè io vedendo l'azione del gol del Palermo, cioè, si è visto anche da casa, non c'era bisogno dell'arbitro sulla linea che non è riuscito nemmeno a vederlo che era gol, cioè non si riesce a capire. Ma da casa volta... è facile, Francesco. No, senza replay. Senza replay. Senza replay, no. Io ho detto che era gol, poi il replay l'ha confermato. Aspettate replay, che c'è Mihajlovic che ne sta parlando. Aspettate che c'è Mihajlovic, sentiamo, stai lì, Francesco. Questa storia dei gol, non gol, è la tecnologia di porta, no? Sì, sono una di quelle situazioni dove, ecco, non dico su tutto, ma almeno su queste cose qua, sì, bisogna usare la tecnologia. Chiaro. Sì, bisogna usarla, anche se oggi bastava, Francesco, l'addizionale di porta, era lì. Non sono d'accordo. Ma come fa? È anche pagato, come fa a non vedere? Beh, cosa c'entra che è pagato, Francesco? Cosa c'entra? Cioè, secondo me è comunque una situazione estremamente difficile. Per guardare una cosa. Ho capito, ma è difficile, ma hai idea della velocità che ha quel pallone, è molto difficile, è estremamente difficile, cioè noi lo diciamo dopo replay, dopo che abbiamo visto alla televisione che già è più facile, poi abbiamo visto replay, abbiamo visto che è gol, ma io tendo in questi casi all'assoluzione, in casi come questo io tendo all'assoluzione del giudice di porta, dell'uomo di fondo campo, di quell'inutile signore che passeggia di porta, si chiama, chiamalo come vuoi, è inutile, verrà eliminato, per fortuna non serve a nulla, però in situazioni come questo è comunque estremamente difficile alla velocità con cui viaggia il pallone decidere se l'ha superata tutta la linea di porta, c'è uno spicchio del pallone che è fuori, lì si va a sensazioni, non ci può essere certezza se non con la tecnologia, che ben venga l'anno prossimo avremo. Sì, detto che la sensazione su questo pallone anche a velocità normale per il rimpallo a rientrare era che sinceramente questo pallone aveva superato la linea, così come poi è stato. Mi fa fare Giovanni dalla Spezia. Giovanni. Sì, buonasera a tutti. Eccoci. Grazie per la convocazione. Prego. Ma due cose. Prima, io sono un tifoso milanista, integralista, ortodosso, e quindi sono d'accordo con il tifoso milanista chiamato prima. Ho 48 anni, ho vissuto tutta l'epoca della Serie B e poi l'epopea. Meglio ripartire dalla B. Integralista, ortodosso, comeinista. Sì, no, io sono un ortodosso, 15 anni ero in curva sud a Milano, però onestamente una situazione grottesca come quella di adesso non la ricordo. Proprio è una cosa che rasenta l'inconcepibile, non si comprende come può Berlusconi, a cui va tutta la mia riconoscenza vita per le 5 Champions che ho vissuto tra virgolette da protagonista, come possa dire se ci crede davvero che non cambierebbe la rosa del Milan con nessun altro. Io dico che la rosa del Milan attuale è una rosa da ottavo nono posto e non serve prendersela con Inzaghi, che è stato messo lì come specchietto per l'allodole, per illudere i tifosi e per evitare forse la contestazione già nel periodo estivo, perché se compriamo degli ex giocatori, SN, con tutto rispetto per la carriera che ha fatto, attualmente non è un giocatore che può farti fare il salto di qualità, per non parlare poi di quelli che sono eterne promesse, insomma Cerci è stato fatto fuori da diverse squadre. Sì, però dobbiamo anche essere coerenti. Un mese fa dicevamo Cerci è comunque un ottimo acquisto, l'Inter l'ha perso, era la sua prima scelta. Inzaghi l'ha detto subito, secondo me Inzaghi era stato onesto immediatamente, aveva detto Cerci non ha i minuti nelle gambe, ci vorrà del tempo per riportarlo il giocatore che è stato l'anno scorso. In tanti premevano, spingevano perché giocasse immediatamente, la verità è che aveva ragione Inzaghi, forse aveva ragione anche su tante altre cose, gli altri ce l'hanno? Ragione anche su tante altre cose Inzaghi ad ascoltarlo. Ma ha ragione su tante altre cose, ma scusami Giovanni, ma gli altri ce l'hanno la velocità, hanno la brillantezza? A me sembra una squadra di cadaveri, cioè sinceramente il Milan che ho visto ieri sera, nonostante la botta di culo del gol di Menezza all'inizio, a me è sembrata una squadra di cadaveri, quindi piuttosto metti Cerci. E come ti ripeto, in situazioni come queste, come dicevano amici miei, cos'è il genio? Fantasia, intuizione, colpo d'occhio, velocità ed esecuzione. Ti giochi Cerci, giochi sulle emotività, l'Inter giochi con Shaqiri, insomma qualcosa ti devi inventare, non puoi lasciare che la barca passeggi così verso la foce del fiume, cioè qualcosa ti devi inventare, e secondo me c'è anche della colpa di Inzaghi. Quindi il Milan non è una squadra ottavo nono posto, dai. Sì, perché poi non si può vivere una serata come quella di ieri. Sono molto curioso, non vedo l'ora che sia domani, perché sono convinto che faremo una grande partita. cross è buono per l'inserimento perfetto di Marco Parolo, pareggia immediatamente la Lazio. Close ha capito tutto, entra in area da solo, Close non sbaglia, 2-1, partita capovolta. È pulito per Giorgevic che litiga con il pallone, poi la conclusione di Parolo, ancora una doppietta al Milan, ancora Marco Parolo, 3-1. Sì, oggi la partita si era messa bene, secondo me abbiamo fatto anche un buon primo tempo, soffrendo perché era normale contro una squadra come la Lazio. È chiaro che i due gol presi nei primi sei minuti, anche palla nostra, insomma, hanno indirizzato una partita che dovevamo giocare meglio, però è un momento così, insomma, è un momento dove ci viene tutto più difficile, però fra due giorni avremo ancora la Lazio, per fortuna, dico io, e avremo modo di rifarci. Oggi c'è qualcuno che ha scritto, Corriere della Sera, Inzaghi ore contate, anche battere la Lazio in Coppa Italia potrebbe non bastare. Monica Colombo, ciao Monica. Ciao, buon pomeriggio. Sei andata un po' controcorrente, perché in realtà tutti dicono la Lazio in Coppa Italia sarà l'ultima spiaggia di Pippo Inzaghi, anche se il Milan si sta muovendo, ha sondato, sta facendo telefonate. Qual è la situazione? Ma la situazione è che in questo momento c'è da parte della società una grossa riflessione su quelle che sono le capacità di Inzaghi come allenatore, o comunque su quanto sia in grado, insomma, di tenere in punto lo spogliatoio in questo momento. Io credo che al di là di tutto la situazione fino a martedì resti congelata, nel senso che Inzaghi resti alla guida del Milan. Detto questo, io penso che per il futuro si può dire che il progetto Inzaghi è già finito, nel senso che se fino a poco tempo fa si intravedeva un barlume di speranza, comunque pur con alti e bassi c'era la speranza, la voglia di intraprendere un nuovo percorso con questo allenatore, mi pare che in questo momento sia subentrata un po' da parte di tutte le anime societarie la rassegnazione a constatare che non sia possibile, insomma. Sì, è stata smentita, Monica, l'indiscrezione secondo cui Berlusconi ieri sera era a casa sua a vedere la partita insieme a Spalletti? Ma assolutamente, mi è stata bollata come autentica follia. Mi è stata smentita da più parti, insomma, anche perché a pensarci, come dire, un po' a mente fredda, se ci avessero detto Shevchenko è andato a casa di Berlusconi da solo a vedere la partita, magari nessuno si sarebbe, come dire, più di tanto stupito per il rapporto personale che Shevchenko ha col presidente. Ma Spalletti oggettivamente non è che abbia un rapporto che azzecca a Villa San Martino. Monica, c'è il traffico, ti chiedo un minuto di pazienza. Tu prima parlavi delle valutazioni che il Milan sta facendo sulla capacità anche di Inzaghi di tenere in pugno lo spogliatoio. Io però una domanda ce l'ho, dopo aver visto McSess ieri dar fuori di matto, mi è tornato in mente Montari che sfasciava una panchina a Torino per una sostituzione, i mogugni del Sharawi, della signora Pazzini, poi penso a Mancini che in 4-4-8 ha fatto fuori Osvaldo, e mi chiedo se anche il Milan non sia un po' imborghesito nella gestione del proprio ambiente, traffico, ripartiamo da qui. Complimenti vivissimi per la vostra trasmissione. Io mi sto preparando uno zabaione con le uova bicassute di Fusignano, perché non ho l'energia per riempire gli altri. Tutti convocati. 800 24 00 24, le scuse di McSess non ve le faccio nemmeno sentire. Martedì leggeremo dal giudice sportivo che cosa succede al difensore francese. Credo, Monica, si vada intorno ai 4-5 turni di squalifica. Ne ha presi 4 Savic della Fiorentina. per qualcosa di molto meno grave, mi stupirei se Max S stesse sotto quella quota. No, però torniamo al discorso che facevamo prima del traffico, Monica. Cioè, va bene Inzaghi, le sue difficoltà a tenere lo spogliatoio, la squadra, ma non è che anche il Milan lo sta supportando poco da questo punto di vista? Un Milan profondamente diverso da quello del passato? Ma allora, innanzitutto dobbiamo dire che probabilmente anche Inzaghi ci ha raccontato un po' di frottole quando diceva che lo spogliatoio era tutto di bravi ragazzi che remavano nella stessa direzione, perché mi sembra che ormai gli episodi di nervi scoperti siano più di uno, ed è vero che magari situazioni del genere si verificano quando i risultati non arrivano, però è un dato oggettivo che fra mugugni e critiche assortite o sceneggiate autentiche come quelle di ieri sera ce ne siano già bizzeffe. Detto questo, no, io credo che vabbè, la società fin troppo abbia appoggiato Inzaghi finora. Ricordiamoci che per quel che riguarda Max S, ad esempio, se a mente fredda viene da chiedersi, ma perché ora Max S non viene messo fuori rosa? Semplicemente perché il numero dei difensori a disposizione del tecnico è così esiguo. Sì, non ci sono riservisti da richiamare in servizio. Esatto, per c'è pure il rischio l'emergenza. Di rivederlo in campo martedì in Coppa Italia, perché altrimenti la coppia sarebbe Alex Ramy, ma qualora uno dei due si infortunasse, poi non ci sarebbero più difensori centrali disponibili per domenica col Parma. Quindi certo. Primavera zero, non ce n'è uno. È la suggestione che viene sempre richiamata in questi momenti. Abbiamo sentito anche i tifosi dell'Inter prima, Monica. No, io credo che, visto che Alex non può fare due partite di fila, quindi già ci sono dei dubbi sul fatto che Alex possa essere riproposto martedì, per cui quindi giocherà Max S. Rassegniamoci, giocherà Max S. E Ramy possano, esatto, essere la coppia titolare martedì in Coppa Italia. Sì, per chiudere il profilo di quello che sarà il prossimo allenatore del Milan, vediamo se fra 72 ore o al più tardi nel mese di giugno. Al di là del nome, intanto uno si è sfilato, Arrigo Sacchi. Sacchi, sì sì, mi sembra che ieri sera non abbia usato tanti giri di parole per chiamarsi fuori. Del resto Sacchi era già stato contattato l'estate scorsa e lui era stato molto chiaro nel declinare l'invito, appellandosi, diciamo, ai suoi problemi personali di salute. Ora non si vede perché... se una persona combatte con lo stress e con l'ansia debba andare a rigenerarsi a Milanello, sì. Che non è propriamente una beauty farm. Poi soprattutto non risulta che sia cambiata la situazione. A questo punto ci si chiede anche che senso ha avuto settimana scorsa portarlo a Milanello, rifargli la proposta, mettere credo altra pressione sulle spalle di Inzaghi, perché poi sì, così è stata letta da tutti. L'allenatore, perché se la grossa perplessità legata a Inzaghi è quella che lui è un allenatore debuttante, esordiente, con poca esperienza, allora già si dà all'esterno l'immagine che lui un tutor ce l'abbia già e che è Berlusconi, forse anzi ne ha pure uno e mezzo, perché anche Galliani non è mai stato così presente a Milanello come in questa stagione. Affiancagli anche una figura carismatica e ingombrante come Sacchi significherebbe solo togliergli autorità. Sì, questo lo iscriviamo all'elenco degli errori della società. Scriviamo al CEPU. Mi dai in 30 secondi il profilo? Cioè, si parla di Spalletti, si parla della soluzione interna Tassotti, c'è anche da capire quanti allenatori può pagare il Milan, perché già paga Seedorf, paga Inzaghi. No, esatto, io credo che per l'immediato sia difficile come dire, uscire dal recinto di allenatori già su stipendio, e per questo io penso appunto a Tassotti, visto che il contratto di Seedorf sì, siamo a 2 milioni e mezzo, 30 giugno 2016 pesante, ecco. E poi per quanto riguarda invece il futuro, verranno fatte delle valutazioni ad ampio raggio. Ieri sera appunto è circolato in maniera quasi impazzita insomma questo nome di Spalletti. Io credo che non sia l'unico della lista, perché comunque ricordiamoci che c'è Prandelli libero, che magari Capello si può svincolare dalla federazione russa, Montella è sempre piaciuto alla dirigenza rossonera, quindi sì, io credo che sì, Monica, che non andiamo quale progetto non andiamo lontani insomma dalla verità se diciamo che dopo Seedorf e Inzaghi non ci sarà un terzo allenatore preso dal campo praticamente fresco e messo in panchina, almeno lì credo che siamo tutti d'accordo. Grazie Monica. Ciao. Grazie a voi. No, anche perché degli ultimi 4 allenatori del Milan 3 sono stati esordienti, perché c'è anche Leonardo, ricordiamoci. Direi che probabilmente l'esperienza insegna. Forse basta. Grazie Monica Colombo. Buon pomeriggio, ciao a tutti. Ciao Monica, grazie. Mi fate sentire Sacchi che si è sfilato? Però Arrigo, ti chiedo, siccome so che tu vuoi bene al Milan, so che tu hai fatto tanto col Milan, tu hai vinto col Milan, se un domani, in futuro, ti chiedessero di dare una mano al Milan, che cosa risponderesti? No, io non ho le energie, le forze per riempire gli altri. Se tu sei svuotato non puoi riempirli, quindi no, non ci penso. Io sono convinto che Inzaghi possa... deve superare questo momento, capita sempre a tutti, questi momenti. Perché il calcio vive di alti e bassi. Sì, sono sempre capitati a tutti. Buonasera. Presidente, buonasera. Avete visto? Sì. Ve l'avevo detto, squadra non coesa, poco positiva e con una pessima organizzazione di gioco. Sì, a me pareva di ricordare qualcosa di diverso. Mi perdoni, gente, sì. Come da mia previsione. Ma se ancora venerdì ha detto il contrario. Esatto. E adesso per il Milan, sì. Tapim, tapum, tapim. Tapu. No, non è più il pipurra. No. Ingrata patria non avrai la mia onda. Sì, ma però non è da lei. A parte che lei ancora venerdì diceva, noi ce lo ricordiamo benissimo, Carlo. Guardi, Capuano. Che non avrebbe mai un po' di Prozac, presidente. Guardi, Capuano, guardi, Vivenza. Sì. È da settembre che vado dicendo che cambierei la rosa della nostra squadra con quella di Cesano Boscone. No, io ricordo qualcosa di diverso. Che gioca nel campionato ultra signore. Sì, io ricordo qualcosa di diverso, presidente. No, lei ha sempre ragione. Però... ed ora io vi dico per il Milan, poi 1, 2, 3 e voi rispondete tapim, tapu. Sì. Ma come? Per il Milan. No. 1, 2, 3 tapim, tapim, tapum, tapum. Sì. Mi sembra che abbia rimosso completamente quello che ha detto fino a venerdì, depresso. Guardi, grande squadra, grande allenatore. Guardi, l'allenatore non è coeso, poco positivo e con una pessima organizzazione di gioco. Sì, beh, quella l'abbiamo vista. Abbiamo già provveduto ad esonerarlo dall'incarico. Ci dà una notizia, presidente Berlusconi, quindi è stato esonerato Inzaghi. Esattamente, ecco. Valerio Staffelli gli ha consegnato personalmente il tapiro e quindi noi lo ringraziamo per il lavoro svolto. Ah, quindi l'avete esonerato col tapiro. E gli auguriamo un futuro coeso. No, bisogna dire la verità che Inzaghi credo sia il primo allenatore del Milan che riceve il tapiro, non è il primo che perde. Sì, sei sicuro? Ma io resto so parzialmente fiducioso e speranzoso grazie ai progressi fatti da Mexès nel campo del kickboxing. Li abbiamo visti. E della lotta greco. Arrivederci, presidente. Arrivederci, presidente. 1, 2, 3 Tapinta pum. Sì, tapinta pum. Tapinta pum. Completamente depresso. Abbiamo 30 secondi. Maurizio da Roma. Maurizio. Buonasera. Prego. Buonasera. io sono, mi seguo moltissimo, sì, intervengo spesso e sono sempre il milanista piagnucolone, però sì, purtroppo oggettivo, perché è un finale che è scritto da tempo. C'è una squadra scriteriata, senza senso, e noi abbiamo una dirigenza, una società che è a livello di serie Z. Sì. Perché assolutamente non c'è, non solo non c'è un progetto, ma quello che dà i nervi a noi tifosi del Milan è quella del tentativo continuo di prenderci per i fondelli. Uso una, sì, parola. Diciamo che leggera, c'è una certa distanza, Maurizio, tra quello che viene detto il venerdì a Milanello e non solo, e quello che poi succede in campo. Però abbiamo tempo per parlarne ancora fino alle 19. 800 24 00 24. Io resto basito ancora da quello che sta dicendo Mancini. Ha detto in un modo o nell'altro arriveremo in Champions League. Ma ne parliamo. Arriva anche Pierluigi Pardo, arriviamo subito. Convocati 800 24 00 24. Noi siamo ancora qui fino alle 19. Chiamate, parliamo del Milan se volete, della crisi senza fine del calcio italiano. Le ultime su Inzaghi le avete sentite prima. Resta fino a martedì, ma il progetto Inzaghi è ormai praticamente finito. Se non sarà tra 72 ore, sarà a giugno. Poi parliamo dell'Inter. Mancini che dice: partite così fa male perderle, meritavamo di vincere. Non so se siete reduci da San Siro, ci raccontate che partite avete visto voi. Pierluigi Pardo, ciao Pier. Come va? Ciao. Vi stiamo ascoltando, vi stiamo seguendo, vi abbiamo un po' inframmezzato con una serie di neomelodici italiani. Ha fatto più schifo il Milan o l'Inter? Beh, il Milan di ieri. Bella gara, eh. Però ci sono anche i meriti degli avversari. Io credo che il Milan di ieri è stato travolto. L'Inter di oggi ha perso una partita che poteva sicuramente non perdere, ma certamente quella idea di possibile evoluzione, di possibile crescita, di speranza che aveva in qualche modo anche la partita di Coppa Italia alimentato, direi che è stata spazzata via. Ed è un dato oggettivo, nonostante il mercato, nonostante gli acquisti, nonostante la popolarità di Mancini che comunque è alta per quello che lui comunque in carriera l'ha presentato dagli interisti, questa è fredda cronaca. Sì, c'è un amico che scrive al 349-238-6666, a parte c'è chi ci dice: voi che partita avete visto? Ulisse, anche il giornalista della Rai che intervista Mancini parla di partita dominata dall'Inter, ammesso che, cioè, il dominio non è il possesso palla, esatto, se tu vai in orizzontale per tutta la partita, dominio, carissimo, guarda, Ulisse. Il dominio sono le palle gol, poi anche le palle gol non passano perché poi il pallone l'ha messo dentro, però di tutte le possibili misurazioni, appunto, sul possesso palla, i calci d'angolo, le zone di campo, il dominio sono le palle gol, nel senso quante volte tu riesci realmente ad avere l'opportunità di fare gol, e poi ovviamente quanto concretizzi, che non è esattamente un dettaglio. E domani scopriremo il voto del portiere del Toro, che non credo elevatissimo. Ma tu, giocando sull'emotività, non avresti messo Shaqiri dall'inizio? Cioè, in questi casi giochi anche sui nervi, giochi anche su queste cose, non mi puoi dire non è pronto, lo fa giocare la Sampdoria, poi lo metto l'ultimo quarto d'ora. Sei in una situazione disperata per quanto riguarda questa Champions League. Però ci può stare anche che io credo che Mancini sperasse oggi di avere un po' il vento a favore anche psicologicamente dalla partita dell'altro giorno, che era stata incoraggiante, e quindi poi magari Shaqiri poteva diventare una soluzione a gara in corso se le cose fossero messe male. Certo, lo Shaqiri che abbiamo visto l'altro giorno è un giocatore che deve giocare 90 minuti tutte le partite, perché può diventare veramente la differenza dell'Inter, quindi la tua domanda ci sta, però insomma non credo che Mancini sia masochista, se non l'ha messo sarà stato per una gestione delle energie. Quello che mi sembra di poter dire, adesso sono passati due mesi e mezzo dal suo arrivo, è che questa squadra ha problemi strutturali, quindi non era soltanto colpa di Mazzarri, al di là del fatto che Mancini è sicuramente più simpatico ai tifosi dell'Inter di quanto non fosse Mazzarri. Però la bacchetta magica, anche perché esserlo stata, meno credo sarebbe stato difficile. Impossibile, gli sparano il laser addosso per rispondere ulteriormente le idee, però insomma la sostanza è che i risultati non arrivano, addirittura la media punti più bassa rispetto a quella di Mancini. 1,11, questa è la media di Mancini, che vivono tra l'altro, e questo pare anche per il Milan, l'ansia e la prestazione delle ex grandi squadre, cioè di club ovviamente di enorme storia, tradizione e aspettative, che quando vanno in difficoltà poi chiaramente sentono una pressione superiore rispetto a squadre provinciali, a abituata alla metà classifica. Sì. È chiaro che il pallone scotti di più se giochi nell'Inter o nel Milan in questo momento. Andrea D'Agrigento, Andrea. Buonasera, io vorrei dare un mio parere. Sì. Se non sbaglio, praticamente. Su cosa? Un certo Osvaldo è stato, diciamo, letteralmente accantonato. È scappato. Sì. Accantonato con troppa leggerezza, pensando che Icardi fosse Ibrahimovic, ma Icardi non lo è. E la mia domanda è proprio questa: noi non abbiamo un finalizzatore di ruolo che. Non abbiamo soprattutto in funzione. Ha scappato Osvaldo. A parte Osvaldo che è scappato. Io, cioè, sinceramente, Icardi, se discutiamo anche Icardi, no. Adesso non lo A me sembra sia forse l'unico non problema dell'Inter in questo momento. È l'unica certezza, o comunque una delle pochissime certezze, un attaccante da 10 gol in campionato, da quasi 15 gol in stagione, se non 15 adesso. Sono fatti forse 15, sì, con quel Coppa Italia l'altro giorno. Quindi, insomma, se discutiamo Icardi, poi... discutiamo Palacio piuttosto. La cui età biologica sembra ormai superiore ai 40. Più vecchio di sì, non è ancora tornato dal mondiale brasiliano. Pier, c'è traffico? Sì, traffico. Era già una brutta serata per Dexès qualche istante fa. Dexès, non si può. Dexès portato via. Arrabbiatissimo, accompagnato verso lo spogliatoio, colpisce una bottiglia, questo è l'inizio di tutto, mano sul collo, Mauri che va giù, c'era stato il calcetto di Mauri, ma adesso ovviamente rivedremo tutto nel post partita con Graziano Cesari, nell'azione precedente che poteva essere da reazione, poi però Mexes ha avuto la peggiore reazione possibile. La punizione ci stava subito per Mauri, per il calcio, però questo atteggiamento da... Assolutamente, ci stava il giallo per Mauri che è arrivato dopo. Giallo per Mauri, rosso per Mexes, un ulteriore problema anche in prospettiva per il Milan. Tutti convocati. Sir Pippo, ti racconti, perché a Milano tutti dicono Pippo non lo sa, ma il Milan le sta prendendo di qua e di là. Allora di chi è la colpa, Sir Pippo? Di chi è la colpa, Sir Pardo? Di chi è? Di chi è la colpa? Del Sir Pippo, del Sir Adriano, del Sir Montolivo, perché c'è anche Pier che scrive, ma cosa diciamo di Montolivo che era il capo dei congiurati anti-Sedorf? Pier, ci sei? No. Cosa diciamo di Montolivo, Carlo? Diciamo che è un giocatore con poca personalità. Anche in difficoltà fisicamente, ed ma è un alibi che regge venendo da 6 minuti fermo. Allora, lui ha fatto da 6 mesi. 2 anni fa ha giocato un'ottima stagione nel Milan, forse la migliore della sua carriera. L'anno scorso con la fascia di capitano ha giocato una stagione anonima da ragioniere. Poi si è fatto male, poveretto, ha saltato i mondiali, adesso è rientrato, però si conferma comunque un giocatore di poca personalità, cioè non è il giocatore da cui tu vai per risolvere i problemi. È stato giusto da parte di Inzaghi riportarlo al centro del villaggio, però abbiamo visto che comunque forse la fotografia del Milan, il capitano del Milan è Montolivo, che è un giocatore che non diciamo che non è trascinante. Sì, Maurizio da Brescia, poi quando abbiamo recuperato Pier lo rimettiamo in onda. Maurizio, prego. Buonasera. Eccoci. Volevo intervenire sul Milan, anche se io sono un tifoso del Toro, entusiasta della vittoria. Sì. Però, insomma, so che adesso lo lasciate stare, Cairo, oppure no? No, io penso che Cairo debba convincersi che comunque ti serve un attaccante, perché Ventura è un fuori classe, secondo me. Fa i miracoli con quello che si trova fra le mani, in realtà. Cairo penso che dovrebbe spendere qualche soldo meglio, non di più, perché se pensate ha speso dei soldi, ma secondo me male. Sì, anche se tanti tifosi del Toro la pensano diversamente, sta spopolando l'hashtag Cairo Braccino, che ancora che deve fare Cairo? Meglio i soldi che abbiamo preso dal mobile e Cerci, dalla vendita di mobile Cerci, perché Santos Migno 4 milioni, 5 milioni di euro, onestamente secondo me non li vale. Sì, ma il conto Maurizio l'ha fatto un paio di settimane fa qui da noi Cairo, ha messo lì l'elenco, ha fatto il bordereau delle spese estive, lui dice io ho investito, si può fare ancora qualcosa, però insomma sì, mi sembra che questo sia un Toro che è avviato a una stagione tranquilla. È una stagione tranquilla. tranquilla che poteva essere un pochino meglio comprando magari un attaccante, perché 750.000 euro l'anno dati ad Amauri secondo me sono buttati via. 700.000 euro l'anno dati a Maxi Lopez sono buttati via. Sì, però posso dire una cosa, eccolo là Pier, eccoti. No, da qualche minuto. No, il punto secondo me è che allora bisogna mettersi d'accordo. Allora, o Cairo è braccino, e allora vuol dire che non spende, oppure Cairo spende male. Cioè, a me sembra che Torino degli investimenti li abbia fatti, poi si può discutere sulla qualità degli investimenti, si può anche discutere sul legittimo desiderio, la legittima ambizione dei tifosi di non vendere Cerce Immobile dopo la stagione scorsa. Questo è il problema di tutte le squadre medie, è il problema dell'Udinese che si qualifica per la Champions League e vende Alex Sanchez. Cioè, è chiaro che dal punto di vista del tifoso tu appena arrivi a una grande impresa avresti voglia di continuare a investire, e invece molto spesso diciamo le squadre medie di medio budget approfittano di queste situazioni per fare cassa. Questo non ci sì, sono logiche di mercato. Non mi sembra che Cairo abbia spinto poco. Ripeto, ha fatto il bordereau un paio di settimane fare qui, semmai, i soldi c'erano. Semmai non ha speso bene, si può discutere su Sanchez Migno, si può discutere sullo stesso Martinez, si può discutere sui soldi dell'ingaggio di Mauri. Però Pier, e a conti fatti a quota 25, ma non mi sembra neanche che Toro stia andando poi così da schifo, no? Cioè, no. Sta facendo la sua stagione, è ancora in Europa League. È liquidissima, è chiaro che il gol di Moretti improvvisamente ribalta tutto, perché sono due punti in più e senza quel gol il Torino sarebbe imbiscato. Oggi invece addirittura ha una vista sulla metà classifica ha anche sbagliato una quantità notevole di rigori, che se, visto che facciamo il gioco dei se avesse segnato poteva anche essere ben più avanti in classifica. Intanto c'è il tuo amico Cassano sotto la curva del Parma insieme a Donadoni a discutere con gli ultra. Oggi c'è stata credo la prima partita del campionato di Serie B dell'anno prossimo. Ha vinto il Cesena, che può continuare in parte a sperare. Mi sembra che l'avventura del Parma quest'anno si chiuda qui, Pier. Sì, direi di sì. Insomma, la sconfitta di oggi è l'ulteriore, è una pietra tombale su ogni ambizione, su ogni speranza. La quantità di problemi è enorme, è paradossale, perché il Parma l'anno scorso, non ci portiamo al netto dei problemi finanziari, che ha cambiato la qualificazione in Europa League, ha avuto una quantità di sfighe, una quantità di problemi tra infortuni, malattie, ricordiamo la situazione di Biani, qualche partenza, insomma, un mercato in uscita. Ieri Parolo, tanto per ricordarci, ha fatto una doppietta. Parolo non doveva del Parma l'anno scorso, c'è anche una doppietta contro il Milan un anno fa. Quindi insomma c'è tutta una serie di elementi, tutto quello che poteva andare male è andato male, veramente da legge di Marti. Però poi capiamo quanto è importante la società, no? Abbiamo 7 giorni per capire dove finirà Cassano, cioè se accetterà di restare in questa situazione fino a giugno o... Ma io posso dirti una cosa adesso? Dacci la notizia. Tante volte non ci ha dato la notizia. Federico da Forlì, resteremo lì appesi per capire dove finisce Cassano. Federico, magari lo sa Federico. Dove va Cassano? Eccoci qui. Dove va Cassano, Federico? Ma Cassano è meglio che torni a Bari, sì. Secondo me. Io sono milanista. Oh, è un'ipotesi, ma è l'anno prossimo se va in Serie A. Un gran giocatore, ma poca testa. Mi ricorda vagamente Balotelli. Sì, o Balotelli ricorda vagamente Cassano, visto che uno è più maturo dell'altro. Sì, prego Federico, siamo qui. Ma io volevo collegarmi all'intervento del tifoso milanista di Roma, il quale ha detto veramente due cose centrate, cioè nel Milan non c'è un progetto, nel Milan veramente ci stanno prendendo per i fondelli, come ha detto lui, ripeto pari pari. Beh, una squadra che compra certi giocatori, mi riferisco a Torres, cioè praticamente siamo, uso una frase super citata, il cimitero degli elefanti. I giocatori che altre squadre non vogliono più, ma anche Cerci non giocava nell'Atletico, ce lo siamo andati a prendere noi, ma ci sarà un motivo? Se sì, però ha spiegato molto bene Inzaghi, ripeto anche in maniera molto sincera, che sì, Cerci era anche sentito, in cima alla lista dei desideri quest'estate, quando era un attaccante reduce da una stagione straordinaria. Secondo me Cerci va aspettato prima di trarre un giudizio definitivo. Ma l'Atletico non lo fa, quanto l'ha pagato l'Atletico? Una quindicina di milioni, euro più euro meno. Ci sarà un motivo. Evidentemente non, si era adeguatamente inserito nel progetto dell'Atletico. Grazie Federico. Pier, sì, no, ti dicevo su Cassano. Dacci la notizia. No, non sia la notizia. La notizia è che poi in generale, insomma, io l'ho visto qualche giorno fa e lui era anche sereno su Parma. Poi tante cose io mediaticamente le avrei fatte in maniera diversa, te lo dico proprio sinceramente, come si parla dei miei amici, nel senso che so che benissimo che lui a Parma si trova bene. Cioè, le cose che avete sentito anche a Staffelli qualche giorno fa sono cose vere, nel senso che lui a Parma si trova bene, ha affetto per la squadra, per i tifosi. È chiaro che su questo poi è ovvio che Cassano e i calciatori sono dei privilegiati, quindi uno può anche dire ma insomma c'è gente che non arriva a fine mese, comunque sono sempre lavoratori, e dopo sei mesi che ogni giorno ti dicono adesso arrivano gli stipendi, non ti preoccupare, si risolve, ti senti anche un po' preso in giro. Certo, ma sono cose che abbiamo detto, è importante. Capisco che ci può essere un certo tipo di demagogia nel dire ma questo arriva solo riguardo ai giocatori, che mettere in mora, fare le eccezioni di pagamento di fronte a gente che non arriva a fine mese può sembrare uno scappo alla miseria, però qui si sta difendendo un principio. Il principio è che se uno lavora deve essere. Sono dei professionisti, ma Pier, ma quante volte abbiamo detto? Allora, il Parma può salvarsi, però, sì, però se li pagano, perché se non li pagano diventa difficile. È inutile stare a guardare la rosa, è inutile stare a guardare il valore assoluto, perché sono dei professionisti e quindi a monte c'è una società che non pagava gli stipendi e dunque abbiamo sempre detto che il problema grosso del Parma non era tanto sul campo quanto su quel versante. Sì, sono pur sempre luoghi di lavoro. Questo, ecco, io quello che la mia percezione parlando con lui è che lui con la città di Parma ha un ottimo rapporto, si trova bene, anche secondo me se la società si sistema e si migliora, secondo me potrebbe anche accettare un progetto anche in Serie B, voglio dire, cioè non è un problema così bellente, non è che ci sì, ma andrà alla Juventus, noi lo sappiamo, lo diciamo, andrà alla Juventus, no scherziamo, sì, vediamo dove andrà. L'ipotesi c'è. Potenzialmente è un'alta fine, no? Se lui può in questa parte finale della sua carriera comunque essere il giocatore magari che fa dei discorsi peggiore, può giocare le coppe, quindi sia per la Juve che per altre squadre, se è in media alta classifica può rappresentare una soluzione di quel tipo. Le incognite semmai sono di carattere caratteriale, appunto, per parlando il gioco di parole. Cioè, Cassano gli voglio un bene all'anima, però sono stati momenti della sua carriera nei quali sicuramente non è stato l'elemento più semplice. Non ha sfruttato appieno le sue potenzialità. È un giocatore integro che può dare, secondo me, un valore aggiunto ancora importante, insomma, per magari nelle grandissime squadre per 20 minuti, per mezz'ora, magari per una partita a settimana, certamente non due, non tre, però secondo me c'è ancora un giocatore capace di dare una qualità che... Sì, mi sento di escludere come grandi squadre l'ipotesi Inter e Milan, resta la Juve. Pronto? Io lo sapevo e lo andavo dicendo da tempo. Squadra troppo poco coesa, sì. E a nulla è valso questo pomeriggio rivedermi le vecchie telecronache vincenti con la voce del mitico Pelegano. Lei è depresso, la verità è presente, Berlusconi è depresso. Capuano, sapevo, sì, dall'inizio che la nostra era una rosa assolutamente inadeguata. Sì. Avevo anche venduto il pullman del Milan e la pancera di Galliani per poter fare un acquisto di qualità. Pier, digli qualcosa tu, Pier. Pier, dimmi qualcosa tu. Che c'è fino, anche la mera marcia, cioè, no. Ma purtroppo, caro Pardo, la pancera di Galliani l'abbiamo venduta solo in prestito con obbligo di riscatto, ma nel 2018. Sì, Pier, diglielo tu che fino a venerdì questi giocatori erano i migliori. Facciamo un itinerario. No, no, Pardo. Adesso, allora, visto che Pardo mi ha stimolato, io dico per il Milan 1, 2, 3. E voi dite: è depresso. Purtroppo, siamo già a un passo successivo. È vero che sono in ritiro tutti? Fino alla partita di Coppa. Noi faremo, stiamo già facendo in questo frangente, il ritiro in Corea del Nord. No, a Milanello. Corea del Nord. E peraltro il nostro allenatore aveva detto assolutamente che oltre al giuoco voleva vedere le bave alla bocca. Le abbiamo viste, qualcosina si è visto. E invece viste le mani sul collo. Va bene. Comunque, insieme a Pardo, io dico per il Milan 1, 2, 3 e voi dite tapin. Arrivederci presidente. Uno, depresso. Sì, 2, 3, tapin tapum. Bravo Fabio, tutti convocati. 800240024 Giovanni da Ragusa. Giovanni. Sì, buonasera, eccoci. Carlo, buonasera Capuano. Prego. Allora, io vorrei mettere, come si suol dire, i puntini sugli. Mettiamo i puntini. Allora, prego. C'è una bella differenza tra la sconfitta del Milan e quella dell'Inter. Sì, zero punti sono, eh. Il Milan ha perso, sì, il Milan ha perso all'Olimpico contro una squadra forte come la Lazio. L'Inter invece ha perso in casa contro il Talmone. Come la mettiamo? Contro? Il Talmone. La chiamava Agnelli. Sì, la mettiamo che secondo me la prestazione del Milan ecco, è forse peggio di quella dell'Inter, oppure fatta la tara dell'avversario. Io ho fatto un paio di conti, il Milan nelle ultime quattro partite ha tirato in porta 10 volte in quattro partite. Peggio no, un disastro tutte e due. Mi sembra un disastro. Mi sembra ci sia poco da fare delle differenze, Giovanni, tra l'una e l'altra. Cioè sono due squadre che attraversano un momento di profonda crisi. C'è un amico Dario che scrive da casa: Seedorf aveva fatto 35 punti in 19 giornate e senza l'impegno con l'Atletico ne avrebbe fatti 41 garantiti. Inzaghi 26 garantiti in 20. Inzaghi ha la squadra che ha. Cioè una squadra priva di campioni. Beh, anche sì. Mancini, cioè, anche l'Inter, cioè, non vedo grosse differenze. L'Inter ha fatto un punto in due partite con Empoli e Torino. L'Inter ha fatto un punto in due partite con Empoli e Torino. Ma un punto per grazia ricevuta, perché ad Empoli avrebbe meritato di perdere. Quindi non vedo grandissime differenze tra queste due sconfitte. Sì, anch'io fatico a trovare qualcosa che differenzi in questo momento, sia la singola partita. La botta di fortuna di trovare gol con Mexes a Fred, uno sparo nel buio, ma poi per il resto né nel primo né nel secondo tempo ha mai dato l'impressione di avere dentro qualcosa, quindi non trovo grandi differenze, anzi secondo me sta peggio. Pier, difficile fare una classifica. No, difficile, alla fine anche abbastanza inutile, nel senso che veramente in questo momento è una guerra fra poveri. Io credo che quello che dice l'ascoltatore è vero, ma è altrettanto vero, scusate voi, che insomma il Milan è stato travolto, il Milan è stato ieri umiliato dalla Lazio, certamente è una squadra molto più forte del Torino. L'Inter ha perso una partita su degli episodi contro la squadra in casa, contro la squadra certamente più debole della Lazio. Quindi, sì, ma senza meritare di vincere, cioè senza fare niente per vincere. Assolutamente. Cioè, da un lato c'è una sensazione di pochezza. L'Inter nelle ultime due partite fra Empoli e Torino ha una sensazione di pochezza, di poca costruzione di gioco, e dobbiamo dire che insomma, anche la partita con la Samp deve essere riletta e rivista alla luce anche della qualità numerica del 12esimo minuto. Perché per 80 minuti non è male giocare in 11 contro 10. Pier, ti fermo perché c'è, a proposito della partita di ieri sera, Claudio Lotito. Buonasera presidente. Buonasera a voi. Che è l'uomo terzo in classifica ancora. Speriamo per lui. E che mi deve dire se domani viene a Tiki-Taka, presidente? Domani sera Tiki-Taka collegato? Domani sera va a Tiki-Taka. Vediamo. Allora, non c'è certezza. Come vicino a Mughini. Sì. Antonio. Dopo vi sentite. Presidente, scrive un amico: inutile che parlate di Inter e Milan, tanto alla fine terza arriva la Lazio. Sta diventando un progetto più che un sogno quello di questo terzo posto. Ma noi cerchiamo di portare avanti il nostro percorso sulla base di un progetto che abbiamo, come dire, stilato. E comincia a prendere corpo. Sicuramente le cose non si risolvono ex abrupto, si risolvono col tempo. Mi pare che il tempo sta dando ragione a noi, che il cammino che abbiamo intrapreso, il percorso che abbiamo intrapreso è il percorso giusto ai fini della possibilità di poter conciliare il risultato sportivo con sostenibilità a livello economico del progetto stesso, perché noi dobbiamo puntare anche all'autoconsistenza economico-finanziaria del sistema, altrimenti rischiamo di creare quello che è stato creato nel passato, magari dei risultati sportivi non supportati poi dai risultati economici. Mi sembra che anche all'Olimpico si respiri aria diversa. Noi abbiamo cercato di far capire alla gente che che sono probabilmente i tifosi, quelli audenti, sono importanti perché rappresentano la colonna vertebrale del sistema calcistico, diciamo, rappresentano poi le passioni, i sentimenti autentici, devono supportare la propria squadra del cuore, però non si devono trasformare in tifosi professionisti, cioè quando sulla carta di intesa è scritto professione e tifoso, perché devono, come dire, sostenere la propria squadra del cuore nel rispetto delle regole, scevri di qualsiasi interesse personale, criticare pure, sì, in forma costruttiva, che può essere uno stimolo, anzi deve essere uno stimolo per chi è preposto a governare il sistema per migliorare, per cambiare, ma non può sostituire il tifoso, non si può sostituire nella gestione, quindi fare in maniera che attraverso degli atti non legittimi possano condizionare l'operato di chi è preposto. Sì, è il rapporto difficile, difficilissimo da sciogliere. Pierre? Sì, ho due curiosità, una su che cosa è stata dal punto di vista sentimentale la serata di ieri, qualcuno insomma... Ma ieri, sicuramente ieri noi abbiamo... come dire, riscoperto una pagina della nostra storia, una pagina che è rimasta nei cuori di tutti i laziali, quelli diciamo che ancora vivono e che l'hanno vissuta in prima persona e quelli i giovani al quale è stata tramandata. Noi vogliamo preservare questo patrimonio e tramandarlo ai giovani e far sì che prevalgano i valori dello sport, che sono il superamento degli steccati di carattere sociale, culturale, economico e razziale, dove deve prevalere il merito, dove prevedere l'umiltà, lo spirito di servizio, che sono i valori fondanti poi dello sport, che non sono altro che i valori fondanti della società civile. Però un dispiacere all'amico Gagliani l'ha dato. Adesso al di là dei dispiaceri o meno, perché nel calcio purtroppo speriamo sempre di essere avversari e mai nemici, perché io con Adriano ho un rapporto di amicizia personale, di grande rispetto e grande stima e considerazione, e quindi sicuramente non può essere una partita che determina un venir meno da questi valori. È chiaro che ieri è stata una partita avvincente, una partita dove la Lazio ha meritato la vittoria, l'ha dimostrato sul campo, quindi penso che siccome Adriano è una persona intelligente, una persona equilibrata, sa che probabilmente la nostra vittoria è una storia che non ha tolto niente a nessuno, perché è stata vinta meritatamente sul campo. Presidente, con spirito di gruppo, spirito di sacrificio e umiltà. Presidente, questa Lazio è una squadra eccellente dal punto di vista dell'organico, in campo, e complimenti anche per la maglietta di ieri sera, che è meravigliosa. Però dica una cosa, io continuo a non capire i tifosi contestanti dell'Olimpico nei suoi confronti. Dica qualcosa a questi tifosi. Ma io adesso purtroppo oltre a dire sono bisogno da fare. Perché io non sono per la politica dei proclami, ma per la politica del fare. Il vero problema è che ormai si è generato una piccola parte di persone una posizione che per motivi anche psicologici non vogliono cambiare. Io penso che l'appello che faccio alle persone ben pensanti, alle persone che hanno tifato da questa squadra all'insegna proprio della passione, dei sentimenti autentici nei confronti di questi colori, prescindendo da qualsiasi condizionamento di altra natura, che devono in qualche maniera riappropriarsi del loro ruolo e soprattutto devono in qualche maniera emarginare le persone che viceversa vanno allo stadio con finalità diverse che non sono sicuramente legate allo sport, ma sono legate a posizioni, a redditi di posizione che non trovano più accoglimento in questo momento, perché in un momento in cui non ci sono più le condizioni economiche del sistema paese non si capisce come è possibile come che possa vivere di calcio, ancora pensare di ecco apposta. Presidente... è un mondo che non esiste più, ha capito? Il calcio oggi deve essere, non a caso abbiamo inserito il fair play proprio per questo, no? Perché le squadre devono dimostrare, oltre a due elementi, il risultato sportivo ma anche l'autoconsistenza economico finanziaria. Presidente, chiede un amico da casa quanto vale Felipe Anderson, cioè quanto ma vuole per cederlo. Sono come quelle pietre preziose di valore inestimabile, per cui non stanno sul mercato, quando uno la trova, siccome è di una, se lei capisce dei brillanti, le spiego subito, la GIA, che è l'organismo proposto all'identificazione del valore della pietra, significa è a un valore penso è di color e i significa che è puro, quindi a quel punto di color penso le gare di color sono difficili da trovare oggi quindi sì, anche quelli come Felipe Anderson sono difficili da trovare certo. Mi pare di aver capito che non lo vende, che non è sul mercato. Non è sul mercato assolutamente, anche perché della vita lei sa meglio di me, quando trova un tesoro no, dice uno lo deve fermare questo tesoro, sì. Perché se altrimenti lo dilapida sbaglia. Certo, prima di salutarla, ieri c'è stata molta moviola per Lazio-Milan, poi la Lazio ha vinto e quindi diciamo di Mazzoleni oggi ci siamo dimenticati, però ieri sera noi abbiamo seguito dall'amico di Pierre, Graziano Cesari, una moviola meravigliosa, gliela faccio sentire e poi ci racconta che cosa è successo. Lazio che vince nonostante il volo dell'Aquila, che non è stato perfetto. No, cioè, non è stato perfetto. Ci racconti la moviola di tutto. Beh, perché è stato un volo. Mi vuoi raccontare anche la moviola? Mi vuoi fare la moviola sulla terra di Olimpia? È stato un volo molto molto lungo, perfetto. Non finiva mai. Di solito questa Aquila arriva sempre in un punto prestabilito, si dice che porta anche fortuna. Invece guarda, il suo atterraggio è su un seggiolino dove non c'è nessuno. Tribuna Monte Mario, posto prenotato, ma è un posto sbagliato. E allora bisogna andarla a recuperare. Chissà, magari da ora in poi andrà avanti la scaramanzia con questo atterraggio che ha portato fortuna a questa Lazio. Dove atterra la prossima volta l'Aquila, presidente? Mi auguro sul Trespolo, perché al di là delle scaramanzie noi abbiamo una visione scatologica della vita legata alla divina provvidenza, non a elementi che fanno parte del pagano, della posizione pagana. Io ritengo che l'Aquila sia invece un elemento importante di attrazione per soprattutto per i giovani, ma un elemento che identifica il nostro simbolo di libertà, anche di fierezza, di orgoglio, il senso di appartenenza. Quindi questa la finalità di quella, diciamo, di questa iniziativa è proprio legata a questi elementi e non certo a elementi di carattere scaramantico. Anche perché quindi, se trova il posto occupato. E non a caso, se lei ha visto, noi abbiamo ritirato fuori, come perché se il termine esatto, la famosa maglietta che era bella, stata meravigliosa, meravigliosa. Con il simbolo dell'Aquila sul petto, proprio bellissimo, perché bellissimo. Deve essere una ulteriore spinta psicologica nei confronti di chi la indossa, sapere che ha la responsabilità di dover comportarsi sul campo proprio per testimoniare la storia di questo club, che è uno dei club più antichi, dal 1900, sicuramente la prima squadra della capitale, che ha dimostrato attraverso oltre un secolo di storia di aver dato anche contributi di sangue attraverso nella prima guerra mondiale, quindi ci voglio dire, è un compendio di valori che vanno salvaguardati e devono essere onorati con prestazioni di altissimo livello. Presidente, avremo altre... Prego. Finali, posso? Allora, sì. Uno è capire, prego. Ovviamente l'unica brutta notizia di ieri è stato l'infortunio di Giorgio, al quale facciamo un grande in bocca al lupo. Volevo capire se questo cambia le strategie di mercato nei prossimi giorni e poi volevo capire appunto l'addestratore se è a rischio esonero, perché adesso appunto sono due volte che l'Aquila se ne va. Stiamo scherzando, lo sappiamo. Allora, innanzitutto per quanto c'è l'addestratore sicuramente non rischia nessun esonero, atteso che governare un animale appunto libero non è una cosa semplice, proprio perché abbiamo detto che ha nella testa anche gli animali hanno una testa poi che li porta ad essere, nel caso dell'Aquila, liberi, a liberarsi nel cielo. In questo caso non ha preferito atterrare sul Trespolo che gli è stato precostituito, atterrato sulla curva, quindi è di buon auspicio, perché quella è la curva Mestrelli, la curva della storia della Lazio, quindi è stato di buon auspicio da questo punto di vista. Sul mercato è atterrato sempre su una posizione che rappresenta la storia di questo club, non solo che è un nobile. Poi il secondo, sul mercato noi stiamo adesso valutando sulla base di quello che è successo il da farsi col tecnico, anche perché noi non vogliamo snaturare questo spogliatoio, vogliamo mantenere in piedi questa chimica che si è determinata nell'interno e vogliamo appunto che quindi non vengano alterati gli equilibri. Bisogna che chiunque interviene o venga inserito, al di là delle prerogative tecniche agonistiche, che possa costituire un valore aggiunto al punto di vista agonistico, lo deve costituire a livello mentale e a livello caratteriale per potersi amalgamare all'interno dello spogliatoio senza creare scossoni o traumi. E comunque il mercato di gennaio offre grandi occasioni a chi ha pazienza. Grazie Presidente. Grazie a voi. Noi la selezione nostra sarà legata sempre a quei valori per cui scegliamo i giocatori: le potenzialità delle neonistiche, la moralità e la competitività economico-finanziaria. Quindi Balotelli no. Quindi Balotelli no. Ma no, questo lo dice lei, io non lo dico, io non entro nel merito delle valutazioni. Noi facciamo le cose che possiamo fare e che vogliamo fare, non ce le impone nessuno, ringraziamo Dio. La nostra gestione è una gestione libera e la dobbiamo fare in rapporto anche a quelle che sono le nostre possibilità. Noi non vendiamo sogni ma solide realtà. Questa è la storia. Grazie Presidente. Tutti convocati. Hai sentito Pier? Balotelli, dite voi che non lo prendo, prendere un'altra punta vedremo, ma ripeto, poi il mercato di gennaio in realtà offre grandissime occasioni a chi può e ha la pazienza di aspettare anche gli ultimi giorni. Saluto Ciccio Graziani, c'è Ciccio? Eccomi qua. Grandissimo. Ciao. Perché c'è ancora Fiorentina-Roma da giocare. Pier, è partita a spartitraffico, cioè visto che la Juve ha più 8, come la vedi tu? È decisiva. Stasera sapremo se è fuga vera oppure no, anche perché è la classica partita che se appunto la Roma non dovesse fare risultato sarebbe un colpo enorme. Se la Roma di contro dovesse vincere, proprio per la pressione che c'è in questo momento, per la difficoltà dell'avversario, sarebbe un grande segnale. Sarebbe un grande segnale che il campionato è lontanissimo da essere considerato concluso. Quindi mi sembra veramente una finale. Chiaramente la Roma ha un solo risultato. Sì, siamo al bivio, Ciccio. Siamo al bivio, sì, perché tanti punti così alla Juve non glieli puoi assolutamente concedere. 5 già mi sembrano tanti. Se poi aumenta il punteggio è chiaro che diventa molto più difficile poter recuperare, a meno che la Juve non si suicidi nel giro di ritorno, ma non è una squadra da suicidio. Sì, anche se oggi non è stata la miglior Juve della stagione, certamente. Ha fatto il suo, Giovanni. Mi ha ricordato da vicino la partita di Empoli, cioè partita sbloccata nell'ultima mezz'ora. Come la pensi e come vedi, Ciccio, Rudy Garcia? Ieri ha provato a difendersi, questa, visti i punti, la seconda miglior Roma da quando si gioca con le 20 squadre e 3 punti. Io accetto le critiche se sono obiettive. Come lo vedi? No, lo vedo che si è un po' innervosito negli ultimi tempi, anche perché vede la sua squadra non fare più i risultati che tutti si aspettano. Ha sentito i primi mugugni, qualche piccolo fischio all'Olimpico, e per lui anche quella è una novità che molto probabilmente gli ha dato fastidio. È chiaro che lo vedo un po' nervoso, ma questo dipende dal fatto che in questo momento la Roma viene da alcuni risultati che non soddisfano né la società né lui, e soprattutto pongono la Roma in una classifica che comincia a diventare difficile in virtù di vincere quel famoso campionato che Rudy Garcia ha sempre detto che ne era fermamente convinto che avrebbe potuto vincere. Sì, Pier, siamo alla prima verifica della tenuta anche psicologica di Garcia sotto pressione dopo i primi fischi. Sì, beh, è un momento che non c'era mai stato, cioè, da quando Garcia è arrivato alla Roma un anno e mezzo fa non c'era mai stata una situazione di questa pressione, un momento con tutti questi mugugni, un momento nel quale gli viene riproverato un po' di tutto, ad essersi troppo uniformato a un certo tipo di ambiente romano, quindi adesso è l'esame, devi uscirne, devi uscire nel migliore dei modi, e se non sarà così non cambierà il dato complessivo, chiaramente, che è quello di un'esperienza fin qui positiva. Non dimentichiamoci che Garcia è arrivato dopo Luis Enrique, Zeman e Andrea Soli, insomma ha ridato un certo tipo di dimensione a questa squadra, però il salto di qualità lo deve fare adesso, il salto di qualità. Se arrivi secondo c'è soltanto una posizione con la quale puoi migliorare la tua vita, che è quella di vincere. E poi devo dire che c'è anche un po' di effervescenza dietro, cioè comunque la Roma deve anche sistemare il secondo posto, insomma, cioè, comunque il Napoli giustamente ha delle ambizioni, la Lazio sta venendo molto bene avanti, cioè, quindi è decisivo, è quasi la parissiana. Io ho visto ultimamente una squadra un po' sulle gambe dal punto di vista fisico, con poche idee, con poche soluzioni. È anche una squadra questa che ha sempre creduto al gioco, è una squadra che ha dei grandi giocatori, ma è una squadra che rispetto alla Juve, allo stesso Napoli, non ha l'attaccante da 20 gol a stagione. No, ce l'ha ma non lo fa giocare, perché c'è Mattia Destro. Mattia Destro è un giocatore da 20 gol. Io non so cosa ne pensa anche Graziani. No, ma vede, tra partite giocate e gol fatti, Mattia Destro è in una posizione. E questo segna un gol a partita. Non un gol a partita, no, ma quasi. Quindi forse è poco funzionale magari al tipo di gioco a volte che la Roma attua. Però sui numeri, Mattia Destro bisogna lasciarlo stare. I numeri sono dalla sua parte. Poi è chiaro, gioca in una grande squadra e non c'ha il posto sicuro, non è il titolare fisso, anche perché negli ultimi tempi davanti credo che l'unico titolare fisso fosse Gervinho. Gli altri bene o male girano tutti. Ci sono grandi calciatori, e dove ci sono grandi calciatori a volte si gioca, a volte si va in panchina, perché Destro, non ce lo dimentichiamo, è un valore aggiunto nella Roma, non è un problema, però non ha il posto assicurato pur avendo dei numeri straordinari. Ciccio. Sì, però Ciccio, Rudy Garcia non la pensa come te, cioè, no. La tua valutazione rispetto a quella di Garcia è molto più lusinghiera. Questo è un attaccante che vive, non voglio dire la serata in casa perché non è così, però insomma vive, a dispetto di numeri importanti, un clima diverso, un clima un po' meno entusiasta, insomma, non è sinceramente un tipo di giocatore che viene apprezzato e che viene capito fino in fondo, secondo me. Questa è la mia sensazione. No, ma forse sai cos'è, Pierluigi? È una questione di caratteristiche. Molto probabilmente alla Roma servirebbe un giocatore con caratteristiche leggermente diverse rispetto a quelle di Destro. Un giocatore che ti fa salire un pochino più dalla squadra, che sia più forte dal punto di vista del gioco aereo, visto che la Roma spesso costruisce le azioni offensive partendo dagli esterni. Però voglio dire, Mattia Destro ha i numeri dalla sua parte, poi gli altri la possono pensare come vogliono. Sì, poi stasera c'è anche la Fiorentina che ha aggiunto Girardino e Diamanti. Stasera c'è Diamanti in panchina, Girardino in tribuna. Forse la Fiorentina ha ancora un'opportunità di pensare al terzo posto, credo lo dicano non solo i numeri, cioè mi sembra che ci sia anche la volontà di provare a inseguirlo, e anche questi investimenti lo dimostrano. No, ma la Fiorentina si allena tutti i giorni con quell'obiettivo. Ha avuto un inizio di stagione non facile, ha avuto una serie di infortuni che ne hanno pregiudicato a volte anche i risultati. Adesso è ritrovato equilibrio, viene da due risultati importanti. Questa sera è la vetrina più logica per farci capire se davvero la Fiorentina, al cospetto di una grande, può continuare davvero a cullare l'ambizione di essere una di quelle squadre che sono indirizzate al traguardo del terzo posto, perché se dovesse fare un girone di ritorno all'insegna della positività, attenzione che la Fiorentina ha la squadra per ambire a quel posto. Sì, sicuro. Sì, certamente, anche perché quel terzo posto si continua a camminare invece che correre. Prima di salutarti chiedo un amico da casa per chi tifi stasera. Roma e Fiorentina, due pezzi del cuore. È come se oggi uno mi dicesse: hai due figli, a quale vuoi più bene? Sì. Io sono legato a tutte e due le società, tra l'altro con la mamma e il papà sono il Toro. La mamma e il papà. No, beh, anche il toro. Adesso dico due figli, altrimenti dovrei dire tre. Ma insomma, questa è una partita che me la voglio gustare, sperando che ci sia una bella cornice di pubblico, ci sia correttezza, sia una bella serata di sport, e poi vinca il migliore, perché alla fine, senti, io collaboro per certi versi con la Roma in un progetto, con la Fiorentina mi sono sempre trovato bene, mi stimano, mi vogliono un gran bene, che devo dire, vinca il migliore. Grazie Ciccio. Un abbraccio ciao. A tutti. Grazie Ciccio Graziani, speriamo di divertirci. Ciao Pier, a domani. Ciao, sentiamo domani Pier. Domani dopo il GR delle 14, noi ci fermiamo qui, io ringrazio Claudia Schiattone, autore di questa puntata, Valeria Bernardi, Pietro Lacorte in regia. Carlo, domani dopo il GR delle 14, presenti. Invece con tutti i convocati weekend, domenica puntuali alle 17. Ciao. Ciao, a lungo, al corto e al pacioccone. Sono Matteo. C'è chi dice che Civati e Orfini dicono solo cialtronate. Ammirate la bellezza della Fiorentina, altro in Roma. Firenze è la capitale. Forza Viola!